Potendo Dio terra disse di potente la terra, disse che il mondo si vive potente la terra, Gesù Cristo, Cristo, disse di potente la terra, disse di vino, e di spazio di tutto, e di sforne secula, ante omnia secula, Deo, Deo, lume dell'umine, Cool.